Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, alla prima della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo, così rispondo subito a un messaggio arrivato come sempre al 349-238-6666 via sms o whatsapp sugli incendi. Faremo il punto del danno economico, oltre che diciamo di tutti i disagi enormi e anche, ahimè, delle morti che in alcuni casi ha creato, ma dicevo del danno economico, ma non solo degli incendi, quanto di un tema che si lega, ma si lega senza esserne sostanzialmente sovrapponibile, il tema dell'Italia secco. Dopo l'appello dei 10 governatori che chiedono, di 10 regioni italiane che chiedono lo stato di calamità, e appunto la battuta e la frase che però, oltre che essere ad effetto, rende l'idea, è come se fosse scomparso il lago di Como quanto a bacino idrico. E faremo il punto con gli agricoltori italiani che in questo momento vedono un danno economico fortissimo, ripeto, non in tutte le regioni. Sappiamo che il danno è più forte nel centro-sud, ma resta poi il tema non solo perché non si siano fatti o non si pianifichino invasi tali da riequilibrare la situazione in periodi di siccità, e poi c'è tutto il tema anche del colabrodo idrico, chiamiamolo così, della nostra rete idrica, per cui sappiamo che complessivamente noi non riusciamo a trattenere che il 10% di quello che è il dato sulle piogge nel paese. Il danno per l'agricoltura invece, la dispersione di acqua in Italia significa 9 miliardi di litri ogni giorno a causa delle perdite lungo la rete di 474.000 chilometri di acquedotti. Praticamente ogni 100 litri di acqua immessa negli acquedotti, quasi 40 vengono persi per l'obsolescenza della rete idrica, che ha una delle età più vecchie d'Europa. Tra l'altro questo fa il paio col fatto che gli investimenti in Italia sulla rete idrica sono tra i più bassi a livello europeo, 32 euro l'anno per abitante a fronte della Francia che ne investe 88, il Regno Unito 102, la Danimarca 129, paesi che, faccio notare, certo non conoscono il clima estivo che conosce l'Italia, quindi anche il rischio siccità. Tra l'altro questo vuol dire che per ogni abitante della penisola 144 litri d'acqua al giorno non arrivano a destinazione, e il 25% degli acquedotti è stato fatto 50 anni fa, il 60% 30 anni fa. E appunto poi c'è il tema dello stato di sofferenza dei fiumi e dei laghi. Sotto il livello di guardia non solo il lago di Bracciano, ma anche il lago di Garda è appena al 34% di riempimento del volume, e il fiume Po al ponte della Becca a Pavia a circa 3,5 metri sotto lo zero idrometrico. E ancora, insomma, il ministro Martina ha annunciato l'avvio di verifica con le regioni per la dichiarazione di stato di calamità, ma gli agricoltori stimano complessivamente in 2 miliardi di euro i danni alle coltivazioni e agli allevamenti, mentre la produzione nazionale di latte è crollata del 15%. Tra l'altro diventa sempre più difficile per gli agricoltori attivare quella che si chiama irrigazione di soccorso per salvare le produzioni, che in alcune aree rischiano di ridursi anche del 50%. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche della vicenda Telecom, l'addio di Cattaneo che è arrivato nel fine settimana, alcune polemiche sulla buona uscita, le ricorderemo. In questo caso parliamo di un gruppo privato e bisogna anche vedere quello che è stato il miglioramento del gruppo privato, decide le buone uscite, c'è un consiglio di amministrazione che vuole, ma faccio notare che il miglioramento nei conti di Telecom è stato oggettivamente impressionante. 1 miliardo in più di EBITDA, cioè di utili prima delle tasse e gli interessi, insomma non è poco. Detto questo, poi uno la può pensare come vuole sulla buonuscita per Cattaneo. C'era un accordo che vincolava quei soldi alla realizzazione del piano, lui c'è già arrivato, ma ripeto, si tratta di gruppi privati. E così come uno non entra nel guardare quello che viene dato ad altri soggetti privati, ci sono gli azionisti, e se il consiglio di amministrazione è d'accordo, ma in questo caso stiamo anche parlando di grandi risultati. Lo dico non per giustificare la buonuscita ventilata da 30 milioni, ma perché bisogna guardare anche ai risultati. In apertura, alcune delle dichiarazioni rese dal numero uno dell'ENI nel forum che ha avuto qui al Sole 24 Ore venerdì e poi pubblicato integralmente al Sole 24 Ore sabato, alcune anticipazioni le abbiamo date anche nei nostri GR 24 di sabato mattina, alcuni passaggi dell'intervento, delle domande e delle risposte del numero uno dell'ENI Descalzi in tema di petrolio e anche di quello che è il progetto dell'ENI sulla chimica in Italia. E poi invece Milano, la candidatura di Milano, Mission Possible or Impossible. Oggi il governo ha presentato il dossier per la candidatura dell'Italia a ospitare a Milano la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA. Il Presidente del Consiglio, come i nostri GR24 vi hanno ricordato, questa mattina era presente al Pirellone. La decisione è attesa a novembre. E su questo sappiamo che non corre solo Milano, anzi le candidate ufficiose, perché di ufficiale non c'è ancora molto, sarebbero 22, ma le più agguerrite sono Copenaghen, parlo del farmaco, dell'Agenzia Europea del Farmaco, Madrid, Stoccolma, Amsterdam, Dublino e Vienna. Non sembrano avere molte chance Croazia, Cipro, Bulgaria e Romania. Secondo un giornale tedesco, Parigi e Berlino sarebbero allineate per il trasloco dell'EMA a Lille in cambio del trasferimento a Francoforte dell'Agenzia Bancaria Europea, anche se Angela Merkel ha smentito che vi sia un accordo. Cosa doveva dire? Il problema è capire se l'accordo c'è sostanzialmente, non formalmente. In quel caso sarebbe un bel biscotto, come si dice in termini calcistici, perché Germania e Francia si metterebbero d'accordo per spartirsi una l'Agenzia Bancaria Europea, l'altra l'Agenzia Europea del Farmaco. Ma anche di questo parleremo in apertura. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo rapidamente sulle notizie in breve, partendo intanto dalla borsa. Borsa che ha anche come oggetto Telecom Italia stessa, più 3,60% il titolo, in questo momento a 0,84 centesimi. Poi parleremo anche della serie storica di Telecom Italia. Faccio notare che appunto nell'ultimo anno il titolo è passato, diciamo, da 0,62 centesimi, un anno e fa esatto, diciamo, agli attuali è arrivato fino a 0,90-0,92, quindi il titolo ha fatto una grossa crescita in borsa nell'ultimo anno. Questo, lo ripeto, non me ne frega nulla della buonuscita di Cattaneo, non è questo, così come è un'azienda privata, sono soldi suoi. Dico solo che i risultati dal punto di vista del bilancio sono innegabili. Sì, ha ragione l'ascoltatore, non c'è solo il numero per sms e whatsapp, c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi la diretta video del programma trasmessa sia sul sito di Radio 24 che sulla pagina Facebook. Andiamo sui titoli di borsa. Oltre a Telecom Italia, più 3,51%, dicevamo, UbiBanca più 4,20%, Banco BPM più 2,5%, Banca Generali più 2,16%, Ferrari più 1,90%, Buzzi più 1,80, Recordati più 1,5, Fineco più 1,40%. È nel meno 1%, Ferragamo meno 1, Case New Holland meno 0,60%. Il petrolio, così entriamo nel primo tema, torna sopra i $46. Distante ancora dai $50 al barile. L'Arabia Saudita ha aumentato il taglio delle sue esportazioni e questo ha portato in rialzo di un punto percentuale il petrolio, e la decisione è stata annunciata in occasione della riunione della commissione di monitoraggio OPEC non OPEC, che include quindi anche la Russia, che non è un paese OPEC, a San Pietroburgo. Brent è a 48,6 e WTI a $46. L'accordo fra i paesi OPEC e non OPEC per tagliare la produzione di petrolio ha tolto dal mercato 350 milioni di barili di greggio in 6 mesi, come ha sostenuto il ministro dell'energia russo Aleksandr Novak, E dicevo, visto che Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, è stato ospite nel forum del Sole 24 Ore di venerdì, ascoltiamo questo passaggio al microfono della nostra Anna Migliorati sull'andamento del prezzo del petrolio e le previsioni dello stesso Descalzi. Siamo ancora in una fase di volatilità. I fondamentali dicono che stiamo, ma ce lo dicono ormai da un anno, raggiungendo un equilibrio fra supply e domanda, però c'è ancora una fortissima speculazione finanziaria e un sistema che continua a guardare alle scorte americane come se fossero le scorte del mondo, e questo ovviamente non aiuta. Quindi quello che noi vediamo è che ci sia volatilità ancora fino a quando le scorte a livello mondiale, soprattutto il crudo, quindi il grezzo, non riuscirà a scendere, e fino a che le produzioni arriveranno a essere in equilibrio con la domanda. E poi ENI, che ricordo è un gruppo con 33.000 dipendenti sparsi nel mondo, di cui 20.700 in Italia, ma gli altri in giro per il mondo. ENI ha chiarito, attraverso appunto l'intervista al forum con Claudio Descalzi, anche i suoi piani per quello che riguarda l'Italia. È ovvio che ENI ha una proiezione internazionale fortissima, però ha dei piani molto stringenti anche per quello che riguarda l'Italia e anche nel settore chimico. Sentiamo sempre Descalzi e sempre al microfono della nostra Anna Migliorati. Non ci sono solo i piedi in Italia, insomma, per noi l'Italia è molto più che dei piedi. Piedi come radici sì, ma c'è il cuore, c'è la testa, ci sono le tecnologie, ci sono gli ingegneri, i geologi, i matematici, i fisici, quindi c'è l'anima in Italia, e gli investimenti assolutamente sono confermati, ma soprattutto quello confermato è una forte credibilità dei nostri investimenti e di quello che è il futuro in Italia. Noi crediamo che ci siano spazi incredibili di possibili sviluppi nell'area energetica, nell'area chimica, nell'area della raffinazione e soprattutto nello sviluppo, che finora è stato solo embrionale, di queste attività in chiave verde. Spostiamoci a altre notizie di carattere internazionale. Il banchiere più pagato al mondo per il secondo anno consecutivo secondo appunto l'analisi condotta anche quest'anno dal Financial Times, è il mitico Jamie Dimon. Dico mitico perché è l'Highlander, l'unico che si è salvato dalle varie decapitazioni dopo lo scoppio della crisi nel 2008. Jamie Dimon è per il secondo anno consecutivo il banchiere più pagato al mondo. L'amministratore delegato di JP Morgan infatti ha incassato lo scorso anno 28 milioni di dollari. Al secondo posto il numero uno di Morgan Stanley, James Gorman, con 22 milioni e mezzo di dollari. Lloyd Blankfein, devo dire un altro che ha resistito alle decapitazioni varie del post 2008, lui è il numero uno di Goldman Sachs, è terzo con 22 milioni e 300 mila dollari. Tra l'altro, per Dimon e Blankfein il 2016 è stato un anno memorabile perché l'effetto Trump, diciamo così, sui titoli finanziari ha fatto sì che il valore dei titoli, delle azioni in loro possesso, siano saliti complessivamente di 314 milioni di dollari. Sale, e qui veniamo alle notizie più di carattere europeo, l'utile trimestrale di Ryanair a 400 milioni di euro contro i 342 previsti e i 250 del primo trimestre 2016, quindi ottime notizie per Ryanair, il cui traffico è aumentato del 12%, ma gruppo dice attenzione, i numeri potrebbero essere distorti dalle vacanze pasquali, manteniamo le nostre previsioni sul 2017, che stimano un utile tra 1 miliardo e 400 milioni e 1 miliardo e 500 milioni di utile per Ryanair, a dimostrazione, un utile enorme, se pensiamo che stiamo parlando del settore delle compagnie aeree, e che fa capire come, insomma, lì si facciano i soldi nel low cost. Ryanair ha anche detto: abbiamo un interesse sincero per la sopravvivenza di Alitalia, speriamo che l'attività di lungo raggio continui. E nel giorno in cui la Grecia si prepara a tornare sul mercato internazionale delle obbligazioni, per la prima volta dal 2014, Atene ha infatti assunto 6 banche per lanciare la sua prima emissione di debito dal 2014 con titoli a 5 anni scadenza al 2022, dicevo, questo nel giorno in cui anche il Fondo Monetario rivede a rialzo tutte le stime di crescita per quest'anno. Il PIL farà complessivamente a livello mondiale il 3,5%, quest'anno il 3,6% nel 2018. Fra i rischi resta comunque l'incertezza politica, ma il Fondo Monetario dice che ci sarà anche un'accelerazione nel 2018, a differenza di altri istituti. Conferma che l'economia cinese crescerà più del previsto, al 6,7% quest'anno e al 6,4% nel 2018, e invariate le stime invece sulla Russia, più 1,4% quest'anno e l'anno prossimo. Migliorate le stime in tutta l'area euro, per cui l'area euro crescerà dell'1,9% quest'anno, dell'1,7% l'anno prossimo. Migliorate le stime anche per l'Italia, che comunque crescerà meno della media dell'area euro, ma all'1,3% contro lo 0,8% inizialmente stimato, quindi mezzo punto percentuale in più. L'1% l'anno prossimo, anche qui sono 0,2 punti percentuali in più rispetto allo 0,8% stimato, cioè stimavano 0,8% quest'anno e 0,8% l'anno prossimo di crescita del PIL italiano, hanno rivisto all'1,3% quest'anno e all'1% l'anno prossimo. Gentiloni, Presidente del Consiglio, ha detto l'Italia cresce più di altri paesi dell'area euro e un paese che migliora le previsioni può avere una legge di bilancio e un abbassamento del debito più significativi e importanti. Quello che a me interessa sottolineare di queste nuove previsioni del Fondo Monetario Internazionale è lo scarto rispetto alle previsioni precedenti. Certamente noi siamo dentro una fase in generale positiva per l'Eurozona, ma dobbiamo registrare una cosa credo interessante, cioè che il Fondo Monetario aggiorna le sue previsioni del 2017 di uno 0,2 per l'Eurozona, di uno 0,2 per la Germania, di uno 0,1 per la Francia e di uno 0,5 per l'Italia. Quindi stiamo parlando, nel caso di alcuni paesi, di uno scalino che si sale, nel caso italiano di qualche scalino in più. Certamente perché partivamo da più bassi, naturalmente, nessuno di noi si è bevuto il cervello, ma credo che l'aggiornamento così sensibile di queste previsioni sia una buona cosa per due ragioni. La prima, banale, evidente, è che siccome le previsioni migliorano anche per quanto riguarda quelle fatte dal governo italiano a quella che sarà la prossima legge di bilancio, noi avremo diversi decimi percentuali in più che si traducono dal punto di vista sia della possibilità di abbattimento del debito e sia dal punto di vista della manovra di bilancio in qualcosa di importante. Un paese che cresce di più delle previsioni è un paese che può avere una legge di bilancio e un abbassamento del debito più significativi e importanti. Noi abbiamo bisogno di fiducia e convinzioni nelle possibilità del nostro paese. Così appunto il premier Gentiloni oggi a Milano per presentare la candidatura di Milano, dell'Italia, che vuole candidarsi ad avere l'Agenzia del Farmaco e candida Milano come sede dell'Agenzia del Farmaco Europeo, che dovrà lasciare Londra. Gentiloni ha anche detto: ce la giochiamo per vincere, non per partecipare, ci sono le condizioni per farlo. Ha seguito gli interventi, oltre che del Presidente del Consiglio, devo dire che era... La rappresentanza era quella che si definirebbe una rappresentanza di sistema, perché c'era, oltre che il Presidente del Consiglio, anche il consigliere del Premier che ha in mano il dossier, l'ex ministro Enzo Moavero Milanesi, poi il Presidente della Regione Lombardia Maroni, il Sindaco di Milano Sala e il Presidente di Assolombarda Bonomi, e tutti questi li ha intervistati e raggiunti il nostro Andrea Ferro. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, abbiamo meteo e pubblicità, poi iniziamo ad ascoltare i vari interventi e ci racconti, insomma, qual è l'obiettivo, visto che la concorrenza è alta, ma il timore, se ho ben capito, è del biscotto a cui facevo riferimento in apertura. C'è un accordo Berlino-Parigi, una si prende l'agenzia bancaria, l'altra dalla Francia l'agenzia del farmaco e tutti gli altri a bocca asciutta 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Cinque sono dei criteri che fanno riferimento alla capacità di accoglienza della città. L'edificio in cui può essere ospitata l'agenzia riguardano i collegamenti nei trasporti, aerei, ferroviari e quant'altro, riguardano anche la possibilità per i circa 900 dipendenti di EMA di trovare casa, e c'è una questione di capacità alberghiera, perché l'Agenzia del Farmaco Europea ha circa 500-600 interlocutori al giorno, quindi c'è un bisogno di una possibilità di trovare, diciamo, alloggio per coloro che vengono per interfacciarsi con l'agenzia per motivi di affari. Dopodiché il sesto criterio fa riferimento al vecchio accordo che esisteva tra gli Stati europei di distribuire quanto più possibile queste agenzie sul territorio. Naturalmente questo è indispensabile richiamarlo, noi però sottolineiamo che qui si tratta di agenzie già operative e di conseguenza è molto importante garantire che la città in cui saranno trasferite non rallenti, a causa del trasferimento, di eventuali inadeguatezze, la possibilità di lavoro. Ci sono candidature valide da un Amsterdam, Copenaghen, Vienna, Barcellona, Stoccolma, ce ne sono svariate, ci sono anche le candidature naturalmente di paesi, il nome di Bratislava che ha circolato molto negli ultime settimane è perché nessuna agenzia è dislocata in Slovacchia. Dobbiamo vedere i dossier, una cosa positiva delle linee guida è che i dossier saranno pubblici dopo la loro presentazione, quindi tutti potremo farci un'idea di merito. Si decide a novembre. Milano ce la farà? Ce la mettiamo tutta perché ce la faccia. Quindi novembre, avete appena sentito il consigliere del Premier Enzo Moavero Milanese, ex ministro, che insomma, è il nostro commissario per giocarsi la partita sull'EMA. Avete sentito dei criteri 5+1 sulla disponibilità alberghiera. Faccio notare una cosa, che a Londra, dove è attualmente l'agenzia del farmaco, garantisce, l'abbiamo già ricordato molte volte, 400 posti letto al giorno, solo di persone che devono andare dall'agenzia del farmaco per motivi di lavoro e quant'altro, che uno dice ma non è una grande cifra, beh sono 400 al giorno, non è neanche piccolissima, più tutto il resto. Il vero problema è a novembre arriverà la decisione con criteri che saranno resi pubblici. Comunque al nostro Andrea, oggi presente Gentiloni, presente l'ex ministro, appunto il consigliere del Premier Enzo Moavero Milanesi, ma soprattutto presente il territorio. Sì, presente il territorio, perché chiaramente da parte di tutti è stata ribadita l'importanza cruciale che avrebbe l'assegnazione a Milano dell'agenzia, e sarebbe, come ha detto Sala, che poi sentiremo a breve, praticamente un po' una consacrazione della rinascita, comunque dello sviluppo notevole di questi anni di Milano, uno sviluppo che ha trovato un punto fermo, ha ribadito, nell'Expo, ma che si è sviluppato anche attraverso investimenti stranieri che sono arrivati in provincia, e poi anche un aumento dei flussi turistici che, secondo Sala, depone a favore di Milano, nel senso che pone Milano come città con una qualità della vita, con uno stile di vita che può competere alla pari, se non anche con qualche carta in più rispetto agli altri concorrenti, e questo è indubbiamente un punto di forza. Però, come sottolineavi tu prima, la paura del biscotto aleggiava dell'accordo Berlino-Parigi. Berlino-Parigi, assolutamente sì, quindi questo scambio di agenzie tra i due potenti dell'Europa che sì, andrebbe a discapito, e forse anche questo ha in qualche modo un po' rinfocolato lo spirito di sistema, o meglio forse finalmente abbiamo visto anche un po' un discorso di sistema tra il territorio e il governo centrale, della serie noi, come hai detto te, Gentiloni ha puntato il dito sul noi non partecipiamo tanto per partecipare, noi partecipiamo per vincere, chissà come andrà a finire. Bisogna conquistarsi voto per voto, perché lo ricordiamo, si voterà. Ecco, possiamo, ascoltiamo anche degli interventi, Andrea. Ascoltiamo anche degli interventi che tu hai raccolto oggi. Sì. Prego. Sì, assolutamente. Allora partiamo con Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia. Per parte nostra, come Regione, stiamo collaborando nella realizzazione del dossier che è pronto. Abbiamo messo a disposizione, come sapete, questo storico palazzo e questo rende il dossier di candidatura di Milano piuttosto competitivo. Sarà, lo sappiamo, una battaglia complicata perché è davvero importante, ci sono tantissime candidature, ma confidiamo nell'impegno del governo che so essere molto forte e quindi siamo tutti nella stessa squadra e lottiamo per ottenere questo straordinario risultato. E ora Giuseppe Sala, che è il sindaco di Milano, ascoltiamolo. In questo momento ci sembrano Bratislava, a mio giudizio, però, a mio giudizio insomma, non so se una candidata fortissima, perché poi dobbiamo immaginare anche di 1000 funzionari che si devono trasferire, noi abbiamo 3 aeroporti. In questo momento gli olandesi sembrano essere forti, su Barcellona conterà un po' il potenziale, un po' di dissidio per noi, insomma, tra Barcellona e Madrid. Vienna può essere una candidatura, però ecco, i giochi si fanno a settembre. Tanto abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, ma ripeto, per me il risultato di oggi è che sia pubblicamente che nell'incontro che ho avuto vis-à-vis con il Presidente del Consiglio, l'ho visto molto molto determinato su questa partita. Probabilmente anche il Presidente del Consiglio sta capendo, e io ne sono contento, che sarebbe una vittoria per Milano, ma insomma anche una bella vittoria per l'Italia e per il suo mandato e per il mio mandato. E ora Carlo Bonomi, presidente di Asso Lombarda. Milano offre delle possibilità per EMA che sono uniche al mondo. Milano è il place to be, e quindi ci crediamo molto in questa candidatura. È una partita difficile, non ce lo nascondiamo, ma veramente noi ci crediamo e abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Sicuramente è un mercato in crescita, è un'industria molto importante, un'eccellenza italiana, ma EMA la dobbiamo vincere non solo per l'industria farmaceutica, ma per tutto il movimento scientifico italiano. E quale può essere la carta decisiva? Credo che l'attrattività della nostra città è unica al mondo. Noi possiamo mettere competenze industriali, ma anche la bellezza del territorio, lo shopping, l'industria del fashion, della moda. A Milano veramente vogliono esserci tutti. Milano è molto internazionale. Chi viaggia nel mondo oggi vede che tutti vogliono venire veramente a Milano. Quindi oggi Milano è una città molto internazionale, è nelle prime 75 città al mondo. Nel 2025 le statistiche dicono che sarà ancora tra le prime 75 città al mondo. Quindi veramente abbiamo tutte le carte in regola. Dobbiamo solo lavorare sulla diplomazia, alla fine vincerà chi ha i voti degli altri partner europei. Su questo noi ci dobbiamo impegnare, e il governo che oggi è a Milano dà il segnale che si vuole impegnare in questa direzione. E a proposito dell'industria farmaceutica, sentiamo ora Diana Bracco, presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo farmaceutico. Milano è una sede importantissima proprio per le scienze della vita, e noi parliamo qui di scienze della vita parlando della European Medicine Agency, quindi riteniamo che l'interazione con le nostre università, con i molti istituti di ricerca scientifica e cura che sono fiori all'occhiello di questo distretto, e con le industrie farmaceutiche pure, sia davvero una carta vincente. E non dimentichiamo che oltre a queste entità che sono già esistenti sul territorio, noi adesso parliamo di Human Technopole, di un qualcosa che è in corso di costruzione, in corso di formazione, quindi, e che potrà benissimo colloquiare con l'EMA. Basta questo o ci vuole dell'altro per vincere questa partita? Ma tutto il resto noi l'abbiamo, abbiamo un dossier buonissimo. Una città che vediamo qui dal Pierellone bellissima, la città è molto centrale, siamo vicinissimi ai laghi, al mare, alle montagne, che è importante per le famiglie, abbiamo una vita culturale cui non riusciamo a star dietro, tanto è vivace, credo che abbiamo tutto. La concorrenza è agguerrita. Certo, la concorrenza è agguerrita, però abbiamo anche il governo. E appunto questa era Diana Bracco, che tra l'altro ha il ruolo di rappresentare il mondo delle imprese dell'università nel coordinamento per portare avanti la candidatura di Milano. Nel ringraziare Andrea Ferro, ricordo che mi scrive che a novembre si avrà la designazione. Prima usciranno nelle categorie, molti sono scettici. Adesso vediamo chi saranno i veri rivali. Io sono d'accordo che Bratislava non sia un vero concorrente, a meno che non sia frutto di un biscotto, cioè dove l'Austria si mette d'accordo e Austria e Germania spingono su Bratislava. Ma vorrebbe dire che la Germania prende sia l'Agenzia Bancaria Europea che l'Agenzia del Farmaco. A chi mi scrive, ma insomma, tutto questo bailam per 1000 dipendenti e 400 posti. Ah, intanto sono comunque 1000 dipendenti di spessore, perché sono l'Agenzia del Farmaco Europeo e quindi portano un ritorno alla città. Ma guardate che non è solo il tema economico in senso stretto, che pure c'è, perché avere l'Agenzia del Farmaco nel tuo paese poi significa obbligare altri a venire qui per trattare. È anche un problema di prestigio, cioè non sfugge a nessuno che questa sia una battaglia anche di carattere politico, e che un'eventuale sconfitta potrebbe segnare un ulteriore, diciamo, dare ulteriormente la sensazione che ormai i giochi si decidono tutti tra Berlino e Parigi, la Parigi di Macron. Vedi il caso, non c'entra niente su questa vicenda del vertice sulla Libia che Macron ha convocato a Parigi, di fatto in parte tagliando fuori l'Italia. Per cui c'è una componente di politica estera fortissima, non solo di conseguenze e ricaduta economica. Grazie quindi Andrea Ferro. Invece noi andiamo adesso sulla borsa, prima di arrivare alla vicenda Telecom Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vedo che qualcuno continua a scrivermi dei dipendenti team in cassa integrazione rispetto al bonus di Cattaneo. Allora, se c'era un accordo in un'azienda privata, i soldi sono privati, e se Cattaneo, ma adesso vi arriviamo, aveva questo accordo, che ha raggiunto quegli obiettivi, avrebbe avuto quel tipo di bonus, se lui li ha già raggiunti è ovvio che lo va a esercitare. Io non ho detto che il bonus sia, non mi occupo di bonus o di stipendi, ho detto solo guardate anche i risultati, perché 3.000 euro di bonus possono essere troppi, se 3.000 euro, se non ho sbagliato la cifra, anche 3.000 euro possono essere troppi se tu hai creato un disastro nella tua azienda, anche 300 euro, e invece un bonus del genere può essere stato discusso, anzi è stato discusso prima della firma del contratto, a fronte di obiettivi, e ho riferito 1 miliardo in più di utili EBITDA, in realtà utili lordi, cioè prima degli interessi e delle tasse, realizzati da Telecom in un anno, ok? Dopodiché uno può ritenere che quella cifra sia troppo alta, troppo bassa, sia giusta, queste sono opinioni, ma ripeto, la prima regola è capire se uno ha portato un miglioramento vero all'azienda oppure no, perché la cifra assoluta in sé a mio avviso vuol dire poco. Andiamo però sulla borsa con Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora, Radio Cori Sole 24 ore. Buonasera. Lasciamo stare Telecom per un attimo, ne parleremo più avanti. Più 3,82%, secondo miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Bene, infatti, UbiBanca più 4,5%, Banco BPM più 2,90%, Banca Generali più 2,2%, aggiungo Ferrari più 2,2%, Saipem più 1,80%, come Fineco Bank, Buzzinice più 1,80%, Recordati più 1,70%, Unipol più 1,60%. Il fronte opposto è rappresentato invece oggi sostanzialmente da Enel meno 1%, Ferragamo meno 0,70%, Atlantia, chi me lo chiede, guadagna lo 0,43%. Va detto che Enel è debole per un motivo anche, diciamo, tecnico, stacca il dividendo, no? Esatto, oggi l'azienda ha staccato il dividendo di 9 centesimi, che peraltro ricordiamo si va ad aggiungere ai 9 centesimi che aveva già staccato a inizio anno come acconto sulla cedola, come anticipazione della cedola. Allora, per quello che riguarda invece i migliori titoli, al di là, diciamo, di Telecom, che sarà oggetto di apposito approfondimento, si sono risvegliate un po' le banche, forse Eleonora c'entra anche la stagione che sta per iniziare delle semestrali, no? Esatto, infatti il 1° d'agosto aprirà le danze delle trimestrali Intesa San Paolo, che diffonderà i conti relativi al secondo trimestre, che non sono ancora noti. E oggi va detto che gli analisti di Morgan Stanley in un report hanno indicato di aspettarsi conti in miglioramento per i principali istituti europei, e quindi questo ha dato il là un po' ad acquisti su tutto il settore. In particolare poi sono partite al rialzo le UBI, ma sono andate bene ad esempio anche le Unicredit, le stesse Intesa San Paolo, anche se sono rimaste un po' più indietro, hanno alla fine fatto solo più 0,4%. È andata in controtendenza B per meno 0,88%, va tuttavia detto che nelle scorse settimane il titolo era andato molto bene e quindi magari in questo caso sono scattati un po' di realizzi. Poi del resto il periodo, ricordiamo, è quello estivo e quindi la volatilità la fa spesso da padrone. Allora, restiamo in collegamento con te, dopo il traffico gli altri titoli, 349-238-6666 per sms WhatsApp. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Focus Economia. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, tra gli altri titoli, dicevamo, oltre che ai bancari e a Telecom Italia, Eleonora, vediamo Enel, ripeto, chi me lo scrive staccava il dividendo. Atlantia più 0,46%, saliva anche un po' di più. C'è forse un po' di incertezza sull'operazione Abertis, dopo è quasi un eufemismo. Sì, dopo che è arrivato il cavaliere bianco spagnolo. Sì, in questo caso rimane ovviamente l'incertezza sull'operazione in Spagna, che rende ovviamente nervoso il titolo. Semmai va detto che la stessa Abertis è salita, ha chiuso a 16,69 euro, quindi comunque sopra il prezzo messo sul piatto da Atlantia, che ricordiamo in contanti è di 16,5 euro per azione. Oppure offrirà anche azioni Atlantia, però diciamo rispetto ai contanti il prezzo è salito più in alto. Ricordiamo che nei giorni scorsi si è fatta viva una società di costruzione spagnola che presenterà a breve un'offerta concorrente, quindi è tutto da vedere come andrà la partita. Va detto che gli analisti di Equita quest'oggi ritengono che comunque Atlantia continui a avere buone prospettive per conquistare Abertis, se non altro perché ha maggiore capacità di indebitarsi rispetto a una società di costruzione che è già indebitata. D'altra parte poi scatteranno anche tutta una serie di valutazioni da parte delle autorità spagnole e del governo spagnolo, che chissà, forse magari invece faciliterà un'azienda spagnola. Allora, gruppo Green Power, milioni, sì, lì abbiamo fatto anche un ragionamento, però che è molto costosa come operazione, prendere, mantenere Abertis in mani spagnole. Poi vedremo se il cavaliere bianco serve solo ad alzare il prezzo o veramente mette 17 miliardi più i 17 di debiti che ha Abertis. Dicevo, gruppo Green Power più 15,37, Toscana Aeroporti più 6,70, Gequity più 6% e Geox più 4,80. I peggiori, WM Capital meno 6,30, Vonovia meno 5,30, Energy Lab meno 4,30, Fedon meno 4%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di borsa, ma a preoccuparci della vicenda che ha dominato nel fine settimana, l'addio di Cattaneo, era nell'aria, quello che volete, però insomma è arrivato poi ufficialmente. E partiamo anche dalle polemiche che molti ascoltatori fanno sul bonus. Ripeto, fermo restando che è un'azienda privata, c'è un comitato di remunerazione, un consiglio di amministrazione, ci sono gli azionisti, vuol dire non sono soldi pubblici da questo punto di vista. Dopodiché vediamo di capire anche perché scatta questo bonus, che accordo c'era stato inizialmente quando Cattaneo un anno fa prese il posto, un po' più di un anno fa, fine marzo 2016, prese il posto di Marco Patuano. Antonello Olivieri, buonasera, del Sole 24 Ore. Buonasera. E dopo arriviamo, invece allo scenario futuro. Possiamo rispondere prima a questa domanda? È circolata la voce di 30 milioni, era su tutti i giornali. 25-30. Che fa parte di un accordo che Cattaneo firmò quando prese l'incarico. Assolutamente. Perché lo può, dopo neanche un anno, già potrebbe richiedere di esercitarlo? Allora, guarda, il problema è che l'accordo, come era stato costruito fin dall'inizio, leggendolo, era un incentivo, diciamo così, a farsi cacciare dopo un anno. Ma ti spiego perché. Non voglio dire che abbia voluto farsi cacciare, ma nel caso in cui fosse stato rimosso, ridimensionato nei suoi poteri Cattaneo prima della scadenza naturale, che era il 2020, avrebbe maturato il diritto di moltiplicare per 4 il super bonus che ha ottenuto per il primo anno, che è stato di 9,3 milioni. E i 9,3 milioni per 4 arrivi quasi a 40 milioni, poi ci sono i compensi fino a fine mandato che non avrebbero riscosso, poi c'è la liquidazione, insomma. All'inizio la cifra stimata delle sue spettanze era addirittura di 50 milioni. Questo accordo è stato firmato, secondo me, anche con un tantino di leggerezza, sia dal Consiglio precedente, non quello in carica attualmente, sia è stato approvato dall'Assemblea, e non solo dal socio di maggioranza, ma anche dei fondi che ritenevano che fosse corretto dare un premio a un manager se portava a casa dei risultati dopo tanti anni in cui, insomma, diciamo, forse non la situazione non era così soddisfacente. Diciamo anche che comunque Telecom non aveva questo gran problema di redditività, avendo già prima della cura Cattaneo i più alti margini nel settore in Europa. Ma comunque, Antonella, una domanda però. Gli ascoltatori dicono: sì, ma i risultati Cattaneo li ha ottenuti mettendo 5.000 persone in solidarietà a casa. Cioè, ma infatti questo il problema è questo meccanismo di far sì che allora, se lui restasse fino al 2020, ogni anno dovrebbe battere alla grande il suo stesso piano, e allora maturerebbe, cioè superare se stesso ogni esatto. anno, esatto, e quindi non è detto che prenderebbe tutti quei soldi. Se invece viene rimosso dopo un anno, il contratto blindato che gli è stato concesso permette di moltiplicare per 4 il risultato del primo anno. È chiaro che se uno taglia i costi, il primo anno i risultati sono al massimo. Non è detto che tutti gli anni riesci a battere i risultati. Quindi la massimizzazione dell'introito per te è se succede un incidente e ti spediscono dopo il primo anno. Allora, da qui a immaginare, lo dico a chi mi sta scrivendo, che tutta la polemica di Cattaneo con il ministro Calenda, con il governo, con Vivendi, creazionista di maggioranza relativa, e quindi con Bolloré, sia stata fatta apposta per farsi cacciare, ce ne corre. Però attenzione, che è quello che ricordava Antonio Olivieri, che un conto è dare 9 milioni in più all'anno se ogni volta batti te stesso, altra cosa è prenderli tutti in una volta perché ti cacciano o ti mandano via dopo un anno. Restiamo sul tema, ma a questo punto anche sulle prospettive, perché molti osservatori nei vari articoli di giornali hanno sollevato dubbi sul fatto che il triumvirato possa gestire Telecom in maniera, diciamo, strutturale nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Questo però dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. Focus economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e in collegamento con Antonello Olivieri, che mi sembra essere stata chiarissima sul tipo di accordo che Cattaneo firmò quando arrivò a marzo 2016 in Telecom, e devo dire è anche su alcuni così elementi, però queste sono cose di carattere privatistico, per cui a lui, tra virgolette, senza poi voler immaginare che l'abbia fatto apposta, conveniva quasi farsi mandare via dopo un anno e non avere l'aumento da 9 milioni e 2 se batteva se stesso di anno in anno. Devo dire che la spiegazione dell'Olivieri mi sembra non necessiti di altri commenti. Antonella, veniamo al futuro invece, perché al di là del fatto che insomma le tensioni col governo erano forti, e in particolare col ministro Calenda, sull'ipotesi dell'open fiber, cioè il governo vuole digitalizzare il paese, rendere il paese digitalizzato, e utilizza Enel, la dico male ma insomma per capirsi, e su questo Cattaneo era stato molto negativo, molto critico su questa ipotesi, tant'è che addirittura il ministro Calenda aveva chiesto maggior rispetto per il governo da parte dell'operatore Telecom. E poi diciamo anche gli scontri con invece l'azionista francese, che è l'azionista di maggioranza in Telecom, Vivendi, che ha il 23,9% di TIM. Da questo punto di vista la soluzione adottata a me sembra chiaramente transitoria, cioè la gestione a tre, e quindi... Ma io però dico una cosa, è possibile cambiare vertice ogni anno, cambiare squadra ogni anno? Mi sembra, vabbè, non dico il nome di una squadra che cambia allenatore ogni campionato e poi non è che vada benissimo, ma comunque... Patuano, precedente amministratore delegato, è stato spedito. Prima, un anno prima della scadenza del suo mandato. Cattaneo è stato spedito 3 anni prima della scadenza del suo mandato. Se anche questa formazione è transitoria, allora dico, vabbè, ma che interlocutore avrà anche lo Stato per parlare della rete? Qualcuno che oggi c'è, domani non c'è più? Cioè, non mi sembra molto seria come cosa. Sì, e qui volevo capire appunto che cosa vedi come prospettiva, perché da quello che abbiamo capito, il nuovo direttore generale dovrebbe diventare l'israeliano Amos Genish, che è attuale Chief Convergence Officer di Vivendi. Poi vi sarebbe però alcune deleghe, andrebbero anche a Arnaud de Puyfontaine come presidente, altre deleghe a Giuseppe Recchi come amministratore delegato. Se ho ben capito, Sparkle in primis, però non vorrei... Sì, c'è un problema di nazionalità, nel senso che le deleghe sulla sicurezza e su Sparkle che rientrano nello stesso capitolo. Chiariamo cos'è Sparkle, italiano. Perché Sparkle è un interesse nazionale. Magari anche la rete. Certo, è anche la rete. Però chiariamo cos'è Sparkle, Antonella. Sparkle è una rete di cavi internazionale. Per esempio, collega il Nord Africa, quindi area calda, con l'America e gli Stati Uniti. E ricordo che all'inizio degli anni 90, quando c'era Mario Rossignolo presidente di Telecom, gli americani si erano fatti avanti per chiedere la gestione di quella società, perché evidentemente, almeno negli anni 90, era ritenuto un asset strategico anche per loro. E quindi lì appunto c'è tutto il tema della sicurezza di carattere nazionale. Quando si potrà avere maggiori chiarimenti, perché appunto il ruolo di Genish è un ruolo molto delicato, cioè quanto resterà in ballo il titolo? Ma oggi mi sembra che sia andato bene, perché evidentemente quello che penso io, forse, anzi mi risulta che lo pensi anche il mercato, che siccome il titolo è comunque sottovalutato e che l'arrivo di Genish, che è stato bravissimo a fondare e vendere a quotazione stellare GVT in Brasile, che conosce bene il mercato brasiliano, possa essere... la premessa per una cessione molto soddisfacente di Team Brasile, anche se il momento per vendere Brasile non è il migliore. E questo potrebbe aprire anche scenari di consolidamento del settore in Europa. Per esempio, il Brasile è stato l'ostacolo per cui Telefonica non ha potuto andare avanti su Telecom, ma se non ci fosse più forse potrebbe anche tornare alla carica, ma non è l'unica indiziata potenziale. Ecco, l'ultimo commento, Antonella, la vorrei su Vivendi, perché qui c'è un azionista, c'è stato lo scontro di Cattaneo con il governo, l'idea che il governo ha, a mio avviso giustissima, di andare comunque a aumentare la connessione del paese, perché questo è un elemento competitivo del paese, non è che faccia favore a uno o all'altro, e un governo deve rappresentare la collettività. C'è poi però il ruolo di Vivendi, perché qua a me sembra che poche idee ma confuse per quello che riguarda Bolloré, perché su Mediaset con quell'operazione ostile è stato stoppato dall'authority e Mediaset, Fininvest, ha fatto capire in tutte le occasioni che non vuole trattare, non c'è nessun accordo che si può raggiungere perché la scalata è stata una scalata ostile, tra l'altro rompendo l'accordo su Premium, facendo abbassare il valore del titolo Mediaset e poi comprandolo in borsa, rastrellandolo e quant'altro. Su Telecom Italia adesso va via Cattaneo, ma non si è ben capito quale sarà la... Ma Vivendi cosa vuole fare alla fine? Appunto, questo non ha capito nessuno, ma non soltanto noi, perché sento le domande degli analisti in Francia quando ci sono le conference call e continuano a chiederlo, la risposta è sempre molto vaga, cioè la Netflix europea, la convergenza, però in Italia la convergenza dov'è se su Mediaset sei stoppato? Cioè... Sono d'accordo, per cui lo stesso Bolloré ha avuto più di una difficoltà col suo consiglio di amministrazione su questa vicenda. Credo di sì all'inizio, però adesso è al controllo di fatto, ha il 29% dei diritti di voto e tra l'altro ha fatto un'altra operazione da maestro perché in finanza, diciamo, chapeau, ha venduto Havas a Vivendi e con il ricavato si è comprato in via definitiva le azioni, alcune azioni di Vivendi che aveva in prestito o con derivate o finanziate. Insomma, ha consolidato la posizione in Vivendi al controllo, ottenuto da Bruxelles come controllo di fatto, utilizzando, cioè vendendo a Vivendi la sua società, che era controllata a oltre il 60%, Havas. Staremo a vedere, ti riavremo in collegamento perché appunto l'unica cosa certa qui è insomma, che ci sia molta incertezza sul futuro di Telecom Italia di team, nella gestione della società stessa, oltre che nelle prospettive industriali. E poi, come dicevi tu, e non è un elemento da poco, anzi per me da italiano è l'elemento principale, il governo ha anche bisogno di avere un interlocutore stabile, diciamo, se deve dialogare con Telecom, e bisogna capire che cosa succederà del progetto Open Fiber, resterà solo Enel, vi sarà anche, diciamo, una sinergia con Telecom. Devi avere un interlocutore, non puoi avere la principale azienda di telecomunicazione del paese che gestisce la rete così, con un triumvirato che già si qualifica come un interim, come temporaneo. Grazie Antonello Olivieri, andiamo sul traffico e poi parliamo dei danni della siccità, non tanto degli incendi, sul mondo agricolo italiano. Non riusciamo a fare tutto il sistema idrico italiano. Vorrei partire oggi da chi ne sta pagando le conseguenze più forti in termini economici, cioè gli agricoltori. Si stima addirittura che possano arrivare a 2 miliardi di euro i danni derivanti dal fatto che 2/3 della penisola sono a secco, manca l'acqua per campi e allevamenti di bestiame. E 10 regioni stanno per chiedere lo stato di calamità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Focus Economia. Allora, i nostri GR vi stanno aggiornando da giorni sulla situazione incendi e sull'allarme idrico. Alcune cifre, noi riusciamo, tra virgolette, a perdere, diciamo, la stragrande maggioranza dell'acqua, perché c'è una dispersione d'acqua in Italia di 9 miliardi di litri al giorno a causa delle perdite lungo la rete di 474.000 km di acquedotti. Ogni 100 litri d'acqua immessa nella nostra rete, quasi 40 vengono persi per l'obsolescenza, la vecchiaia, l'anzianità della rete idrica. È una delle più vecchie d'Europa. Pensate che il 25% degli acquedotti è stato fatto 50 anni fa, il 60% 30 anni fa. Quindi l'85% degli acquedotti ha tra i 30 e i 50 anni. Per ogni abitante italiano ben 144 litri di acqua al giorno non arrivano a destinazione, e da qui si arriva alla cifra di 9 miliardi. Tra l'altro, noi siamo il paese che spende di meno per rimodernare i suoi acquedotti, spendiamo 32 euro l'anno per abitante a fronte della Francia che ne spende 88, Regno Unito 100 euro, la Danimarca 129 euro. Ma adesso passiamo, oltre che alla situazione di emergenza idrica e le 10 regioni che stanno per annunciare lo stato di calamità. Ricordo che non c'è solo il lago di Bracciano, anche il lago di Garda è al 34% di riempimento. Il Po al ponte della Becca Pavia è a 3,5 metri sotto il livello idrometrico e via così. Vediamo ai danni che purtroppo si stanno già generando nel mondo agricolo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, buonasera. Buonasera a voi. Abbiamo visto diverse stime, fino a 2 miliardi di danni, immagino soprattutto al centro-sud, perché è lì da Roma in giù che si sta realizzando la parte più preoccupante della siccità. Quali sono i danni che voi state monitorando più eclatanti, diciamo, alla produzione agricola? Ma allora, innanzitutto io direi che oggi i danni sono leggermente minori. Ad oggi quelli che sono stimati siamo all'incirca 1 miliardo e 200 milioni. Questo è il dato del centro studi di Confagricoltura, che ovviamente poi in valore assoluto, per quello che può essere il valore poi sulla tavola, può raggiungere ovviamente 2 miliardi, quindi 1 miliardo e 2 solamente il danno ad oggi sul comparto agricolo. I danni noi li stiamo registrando un po' tutta Italia, certo nei danni maggiori sono quelli del centro e sud Italia, legati a temperature caldissime che ovviamente sono accompagnate da non piovosità che purtroppo sta andando avanti da diversi mesi, perché oggi noi ci stiamo accorgendo del caldo, di quelli che sono i danni della siccità, ma dobbiamo anche registrare un'annata che non è stata assolutamente piovosa durante l'inverno, e questo è stato un dato che già dai primi mesi dell'anno veniva segnalato dal comparto agricolo come un segnale a cui avremmo dovuto fare maggiore attenzione. Purtroppo la primavera e soprattutto quest'estate sono particolarmente siccitose, quindi sono poi stati evidenti i danni dal cambiamento climatico. Allora, su questo, giustamente mi scrive un ascoltatore: Barisoni, ho 42 anni ed è dalle elementari che sento parlare delle perdite negli acquedotti. Lo so, io sono un po' più vecchio di lei, ma anch'io ne sento parlare dalle elementari. Allora, su questo però, proprio voi che rappresentate uno dei settori produttivi che maggiormente viene colpito dalla cattiva gestione del patrimonio idrico italiano, passata l'emergenza, si riesce ad avere, anche su pressione vostra come Confagricoltura, una pianificazione di carattere più strategico e meno emergenziale? Cioè, da dire, va bene, adesso vedremo cosa si riesce a fare, a garantire. Ho visto il ministro Delrio che ha detto assegneremo le risorse per adeguamento delle infrastrutture di un centinaio di dighe, c'è un piano da 294 milioni per il miglioramento della sicurezza. Ma insomma, avere un tavolo permanente, un osservatorio permanente, governo, parti sociali, si sarebbe chiamato, cioè parti in questo caso coinvolte e che ne subiscono i danni, le sembra, diciamo, chiedere troppo? No, non mi sembra chiedere troppo. Noi l'abbiamo chiesto nella nostra assemblea di 10 giorni fa, era presente dall'altro il ministro Galletti, come ci ha raccontato, che oggi anche fare dei piani degli invasi molto spesso si incontrano poi delle resistenze di enti locali che molto si mettono poi di traverso rispetto a delle politiche di sviluppo nazionale, e quindi io ritengo che invece sia assolutamente necessario fare una volta per sempre una politica delle programmazioni, tanto più che abbiamo oggi un'agricoltura italiana che va forte nel mondo, perché tutti gli anni stiamo aumentando molto nelle quote export, e quindi abbiamo questo primato e dobbiamo mantenerlo. Però per essere competitivi poi bisogna essere anche competitivi nei sistemi produttivi. L'acqua è uno degli strumenti essenziali nelle produzioni agricole. Immaginate che il 19% della superficie seminata in Italia è irrigata. Questo 19% rappresenta oltre il 50% della PLV ed è pari all'80% di quello che noi esportiamo, proviene da prodotti a base di acqua. Quindi come possiamo essere competitivi nel mondo se non noi stessi investiamo nel rilancio delle reti infrastrutturali? Noi stessi agricoltori stiamo dicendo da tempo che abbiamo bisogno di nuovi strumenti per essere più moderni, quindi nuovi sistemi anche di irrigazione, e quindi ben venga questo intervento che il ministro Martina ha voluto mettere in campo con 700 milioni di euro, ben venga l'attenzione che è stata data al tema della siccità in questi giorni da tutte le forze politiche, da ultimo oggi intervento del presidente Berlusconi, quindi io credo che finalmente ci siano tutti gli elementi per poter fare qualcosa. Allora, questo per quello che riguarda le opzioni future. Tra l'altro, sulla parte invece di emergenza che non riguarda solo l'agricoltura, è chiaro che in questo momento la situazione più delicata è a Roma, anche per le dimensioni. e si va verso un vertice tra mercoledì e giovedì, un vertice dell'Osservatorio Permanente sugli Usi Idrici dell'Appennino Centrale al Ministero dell'Ambiente. A Roma la dispersione di acqua nei quasi 6.000 km di tubature e condutture è in media del 45%. Questo vuol dire un costo in bolletta, perché c'è, oltre che il danno c'è la beffa, un costo di 95 euro per abitante. Non poco rispetto alle tariffe attuali, perché in media sono di 300 euro l'anno per una famiglia di 4 persone. E tra l'altro, rispetto a 10 anni fa, nel Lazio le tariffe sono aumentate del 75%. A Roma un cittadino paga in media in bolletta 36 euro l'anno per gli interventi di riparazione e rifacimento della rete idrica. Nei paesi del nord Europa, che non hanno nemmeno il problema climatico di rischio siccità così alto come da noi, gli investimenti sono di 90 euro a cittadino. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha chiesto ad Acea, l'ente gestore, di formalizzare una proposta alternativa. Io credo che, se è vero che veniva prelevato solo un millimetro al giorno, dire poi che ora bisogna bloccare l'acqua per 8 ore a tutti i romani o a gran parte dei romani sia una esagerazione. Io non ho mai fatto polemiche, non farò mai polemiche, soprattutto su temi così delicati, però chiedo a Acea, che è l'ente gestore, di formalizzare una proposta alternativa. Noi faremo di tutto per collaborare, compreso anche valutare captazioni da altre fonti per permettere di garantire il servizio idrico alla città, e credo che anche il governo, che sta valutando lo stato di emergenza, farà la stessa cosa. Quindi è ora il tempo di trovare soluzioni, e dialogando, parlando, io credo si possano trovare. Presidente Giansanti, per quello che riguarda i danni all'agricoltura, avete dei danni maggiori nel Lazio, o il Lazio, in questo caso Roma e l'area urbana di Roma, è in primo luogo un'emergenza, diciamo, civile, ma sull'agricoltura i danni non sono più concentrati lì che altrove? Guardi, io sono tra l'altro un agricoltore a Roma e cittadino romano, quindi mazziato due volte. Noi da anni che combattiamo con la siccità, quindi gli agricoltori del centro Italia sanno bene che cosa significa convivere con la siccità. Certo, quest'anno è stato un anno particolarmente difficile, quindi rispetto allo scorso anno le produzioni sono più basse del 35%, quindi l'annata è andata molto molto male. Il problema è comunque un problema più di carattere per la città di Roma che non per il comparto dell'agricoltura, perché noi comunque non ci approvvigioniamo dal lago di Bracciano, ma noi abbiamo un sistema di bonifiche, quindi prendiamo acqua dal sistema dei consorsi di bonifica. E quindi va un po' meglio, se ho capito bene? Noi abbiamo subito i danni del caldo e della scarsa piovosità di questa primavera. Sì, ma non, diciamo, l'assenza idrica almeno. No, per ora non segnaliamo assenza idrica. Allora, grazie e in bocca al lupo, poi vedremo. Senta, queste sono le stime attuali. È chiaro che adesso nella parte nel nord Italia c'è un miglioramento da questo punto di vista meteorologico, per cui temporali vi sono stati. Presidente Giansanti, risentiamoci anche a breve per capire, insomma, se poi la situazione va verso una normalizzazione, anche no, quindi l'augurio è di non risentirci, perché la situazione si normalizza. Invece, se ahimè dovesse continuare questo livello di criticità, risentiamoci a breve per capire come stanno affrontando gli agricoltori e quali danni ulteriori dovreste stimare. Grazie al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.